Allora, ciao Rocco, sei qui con noi su Radio Wombat, grazie per esserti prestato a questa piccola intervista. Ciao a tutti e tutte. Bene, grazie. Allora, ti volevo chiedere quindi di raccontarci, quindi se farò parlare totalmente a te, di una mostra che ci dirai appunto che stai organizzando e che ormai è già in atto. Quindi raccontaci pure di cosa parla, quand'è e queste cose qua. Allora, giusto oggi, lunedì 20 novembre, abbiamo aperto una mostra nel complesso delle Murate, in particolare alla Fondazione Kennedy, che durerà una settimana. La mostra si chiama Dire l'indicibile, l'entanglement quantistico, e cerchiamo di raccontare in maniera più possibile coinvolgente, speriamo interessante per chi voglia venire a vedere, quali sono i principi alla base della teoria della meccanica quantistica e con un focus su i temi, l'argomento dell'entanglement, in quanto è alla base di quelle che oggi vengono chiamate tecnologie quantistiche, e nonché oggetto del premio Nobel del 2022, a dimostrazione del fatto che siamo noi fisici e ci facciamo seghe mentali su sta roba, ma che questo avrà molto probabilmente negli anni a venire un grosso impatto sulla fisica, ma anche sulla tecnologia e molto probabilmente sulle vite delle persone. Quindi per voi l'obiettivo è quello proprio di divulgare alla popolazione, tutte quelle che verranno a vedere la mostra, un po' di cosa si tratta, tutti questi argomenti di cui io non so niente, ma spero di saperne di più a breve. Assolutamente, l'obiettivo è esattamente quello. Io di lavoro non faccio mostre, sono un ricercatore in fisica in particolare, in tecnologie quantistiche. Assieme a me diversi altri ricercatori hanno dedicato parte del loro tempo, talvolta di lavoro, talvolta il tempo libero, a creare questa mostra. E oltre, in particolare direi, una ricercatrice che invece si occupa proprio di divulgazione, di cercare di trovare modi di raccontare le tecnologie quantistiche a un pubblico possibilmente più largo possibile. E inoltre potremmo dire che grazie a questa ricercatrice la mostra stessa è un esperimento, in quanto viene chiesto a chiunque volesse dedicare qualche minuto dopo aver fatto il giro della mostra, di dedicare un pochino di tempo per un questionario anonimo che andrà a far parte di una ricerca proprio sulla percezione delle persone dell'argomento della meccanica quantistica. Bello, bello, molto interessante questo. E, quindi capisco che è un esperimento, però mi sembra di ricordare già un'altra mostra avevate fatta sullo stesso tema, o mi sbaglio, era un altro tema forse? Allora, diciamo, questa qua è la seconda edizione della mostra Dire l'indicibile, ma è solo quest'anno che il focus è l'entanglement. Infatti, l'anno scorso siamo stati per un paio di settimane alla Manifattura Tabacchi, dove ci hanno ospitato con una sala e abbiamo parlato di quelli che sono i postulati della meccanica quantistica, ovvero le idee che stanno alla sua base. Quest'anno, avendo dedicato un ulteriore intero anno alla preparazione, più che altro all'ampliamento della mostra dell'anno scorso, vi saranno gran parte trattate nella mostra, gran parte delle tematiche dell'anno scorso e in più anche questa seconda parte sull'entanglement che è circa metà della mostra. Per cercare di rendere questi argomenti più possibili, digeribili, anche se si tratta di cose certamente antintuitive, abbiamo costruito, in alcuni casi aiutati da professionisti, in altri casi con le nostre manine dei ricercatori che non sanno come si fanno a fare le cose belle, delle installazioni che cercano di mostrare fisicamente, proprio a far vedere con gli occhi dei visitatori e far toccare con mano in alcuni casi alcuni semplici esperimenti, in altri casi alcuni oggetti che per analogia dovrebbero cercare di aiutare la veicolazione di certi temi che a volte sono difficili da immaginare. Bene, bene, grazie, guarda perché te l'avrei voluto chiedere infatti com'era strutturata la mostra. E molto interessante anche perché su Wombat tante volte, su Radio Wombat, diciamolo per bene, tante volte si è affrontato i temi proprio della comprensione, di andare a fondo sugli argomenti, argomenti molto vari, a seconda delle trasmissioni ovviamente, però sì, è diciamo un focus che sicuramente abbiamo e che piace avere, e infatti è il motivo per cui ti ho chiesto questa intervista. Allora direi, magari ricordaci quando e dove è, fino a quando dura. Allora, come ho detto prima, la mostra è aperta oggi, lunedì 20 novembre, e starà aperta per una settimana fino al lunedì 27 novembre. È aperta tutte le mattine dalle 9:30 a mezzogiorno e mezzo, e il pomeriggio dalle 2:30 alle 6, alla Fondazione Kennedy, che si trova nel complesso delle Murate. L'ingresso è dal numero 10 di Via Ghibellina. Ci tengo a dire che la mostra è completamente gratuita, non l'avevo menzionato. Giusto. Inoltre, ci saranno talvolta io, talvolta altri ricercatori a fare da guide per delle visite guidate completamente gratuite, anche queste. Incoraggiamo gli interessati a, ovviamente, ditelo a amici, parenti, cani, gatti, chi vi pare. Noi Giusto. siamo molto contenti di ricevere persone curiose. Inoltre, se vi accorgete di essere un bel gruppo, magari mandate una mail a Italian Quantum Week, penso sia Italian Quantum Week Firenze, @cnr.it, qualcosa del genere. Se cercate Italian Ok. Quantum Week su internet, trovate noi. Perfetto. Per prenotare, nel senso semplicemente farci sapere di avere una guida pronta per un gruppo grosso. Perfetto, guarda, grazie mille davvero. Sembra un evento molto molto interessante. Verrò sicuramente e spero che molte ascoltatrici di Wombat saranno presenti pure. Grazie Benissimo, lo ancora spero anch'io. e Grazie dell'opportunità di informare prego, i gente il più microfoni presto sono sempre possibile. aperti per futuri eventi e mostre. Grazie.